Mi feci condurre nella Rue du Rocher con mezz'ora di anticipo. Giulia, in abito rosso nuovo, che non le si addiceva affatto perché faceva sembrare anche più pallido il suo viso che di natura è già pallido, correva agitata qua e là per la stanza da pranzo e assestava i piccoli ferri da cavallo argentati di cui aveva adornata la mensa e che dovevano augurare un felice anno a tutti noi. Ti ho dato a tavola come cavaliere Luigi Bonaparte, questo ragazzo grasso e tanto noioso che davvero non sapevo a chi affibbiarlo, dichiarò. Volevo dirti qualche cosa, incominciai io. Non potresti pregare Giuseppe di non scrivere a Napoleone della veste da camera, voglio dire, della veste da camera di questo Monsieur Charles alla Malmaison? Oh, la lettera per Napoleone è già partita e ogni altra discussione è superflua, disse Giuseppe nello stesso momento. Non m'ero accorta che era entrato nella stanza da pranzo. Adesso era in piedi davanti alla credenza e si mesceva un bicchierino di cognac. Ci scommetto che Giuseppina è venuta oggi da voi a pregarvi di interporre i vostri buoni uffici. È così, Desirée? Io mi strinsi nelle spalle. Ma come mai voi vi mettiate dalla parte di lei invece che dalla nostra? Questo è per me un mistero, continuò Giuseppe indignato. Che cosa intendete per la nostra parte? Domandai. A me, per esempio, e naturalmente Napoleone. Questa faccenda non vi interessa affatto e Napoleone in Egitto non può cambiare le cose, ciò non farà che amareggiarlo, perché dargli dei dispiaceri? Giuseppe mi contemplò con interesse. Dunque allora, sempre innamorata di lui, è commovente, disse con ironia. Credevo l'aveste dimenticato da un pezzo. Dimenticato? Dissi meravigliata. Non si può dimenticare il primo amore. Anche Napoleone, del resto. Oh Dio, a lui non penso quasi mai, ma il batticuore di quei giorni e la felicità che ho provato e il dolore che ne è seguito, no, questo non riuscirò mai a dimenticarlo. E per questo adesso vorreste risparmiargli una grande delusione? Sembrava che Giuseppe pigliasse gusto a questo discorso. Si versò ancora un bicchierino. Certamente, io so molto bene quel che si prova quando si ha una grande delusione. Giuseppe sogghignò, compiaciuto. Ah, ma la mia lettera ormai è già in viaggio. E allora non c'è più ragione di parlare di questo, dissi io. Giuseppe intanto si era versato altri due bicchierini colmi. Venite, ragazze, adesso dobbiamo farci noi tre gli auguri di Capodanno. Bisogna che vi mettiate di buon umore. Gli ospiti possono essere qui da un momento all'altro. Ubbidienti, Giulia ed io, prendemmo i bicchieri che lui ci porgeva. Ma ancora non avevo accostato le labbra al cognac che mi sentii venir meno. L'odore mi ripugnava e deposi subito il bicchiere sulla credenza. Non ti senti bene? Hai la faccia addirittura verde, Desirée, gridò Giulia. Io mi sentii venire delle goccioline di sudore sulla fronte. Mi lasciai cadere su di un soffà e scossi il capo. Oh no, no, non è niente. Adesso mi viene spesso. E mentre dicevo questo, chiusi gli occhi. Forse aspetta un bambino, udii la voce di Giuseppe. Non è possibile, io dovrei saperlo, replicò Giulia. Se è malata, devo scrivere subito a Bernadotte, disse Giuseppe con fervore. Io riapersi subito gli occhi. Vorrei vedere anche questo, Giuseppe. Voi non gli scriverete una parola. Voglio fargli una sorpresa. Con che cosa? Domandarono insieme Giulia e Giuseppe. Con un figlio, dichiarai. E di colpo mi sentii piena d'orgoglio. Giulia cadde in ginocchio accanto a me e mi abbracciò. Giuseppe disse: Potrebbe anche essere una figlia. No, sarà un figlio. Bernadotte non è fatto per avere una figlia, dissi io e mi levai. E adesso me ne vado a casa. Non tenetemi il broncio, ma preferisco coricarmi ed entrare nel nuovo anno dormendo. Giuseppe aveva versato dell'altro cognac e tanto lui quanto Giulia bevvero alla mia salute. Giulia aveva gli occhi umidi. Viva la dinastia Bernadotte, disse Giuseppe ridendo. Questo scherzo mi piacque, sì? E auguriamo ogni bene alla dinastia Bernadotte, dissi. Poi mi feci condurre a casa. Chéau di Parigi, 17 mesi d'oro, anno settimo. Mamma scrive probabilmente 4 luglio 1799. Da 8 ore ho un figlio. Ha una peluria scura, come di seta, sul capo. Ma Maria dice che probabilmente questi primi capelli cascheranno. Ha gli occhi azzurro scuro, ma Maria dice che tutti i bambini nuovi di zecca hanno gli occhi azzurri. Sono tanto debole che gli occhi vedono dappertutto dei bagliori. E tutti si arrabbierebbero molto con me se sapessero che Maria ha ceduto e mi ha portato di nascosto il mio libro. La levatrice crede addirittura che io debba morire, ma il medico dice che è sicuro di salvarmi. Ho perduto molto sangue e adesso mi hanno sollevato il pagliericcio per frenare l'emorragia. Dalla stanza di soggiorno giunge la voce di Gian Battista, CEO di Parigi, una settimana dopo. Adesso neppure la gigantessa, voglio dire la mia levatrice pessimista, crede più che io debba morire. Me ne sto coricata su di una montagna di cuscini e Maria mi porta tutti i miei cibi preferiti. E tutte le mattine il ministro della guerra di Francia siede accanto al mio letto e mi tiene delle lunghe conferenze intorno all'allevamento dei bambini. Gian Battista è tornato quasi di sorpresa un paio di mesi fa. Dopo Capodanno mi ero riavuta e gli avevo ancora scritto, ma soltanto delle lettere brevi e per nulla affettuose, perché provavo una grande nostalgia di lui e insieme ero stizzita per causa sua. Nel Moniteur avevo letto come egli avesse presa Philippsburg con 300 uomini. La città era difesa da un presidio di 1500 soldati. E come avesse stabilito il suo quartier generale in una località che si chiama Gamersheim. Di là era avanzato verso Mannheim, aveva conquistato la città ed era diventato governatore dell'Assia. Governava i tedeschi di quei territori secondo le leggi della nostra Repubblica, aveva soppresso la pena della fustigazione, abolito i ghetti. Dalle università di Heidelberg e di Gießen aveva ricevuto entusiastiche letture di riconoscenza. Gian Battista ricevette allora da Barras l'ordine di tornare a Parigi e trasferì il comando della sua armata al generale Massena. Un pomeriggio, come tante altre volte, sedevo al pianoforte e provavo il minuetto di Mozart. Le cose andavano ora proprio benino, soltanto in un punto regolarmente sbagliavo. Quando si aprì la porta dietro di me. Maria, questo è il minuetto con cui voglio fare una sorpresa al nostro generale. Come ti pare che vada? Va magnificamente ed è davvero una grossa sorpresa per il nostro generale, disse Gian Battista prendendomi fra le sue braccia e dopo due baci fu come se non fossimo mai stati divisi. Mentre apparecchiavo la tavola mi andavo torturando il cervello pensando come avrei potuto annunciargli il nostro futuro figliuolo. Ma all'occhio d'aquila del mio eroe non può sfuggire nulla, e così Gian Battista mi domandò di punto in bianco: Dimmi un po', ragazzina, perché non mi hai scritto che aspettiamo un figlio? Anche lui non ha pensato neppure un momento che possa essere una figlia. Io mi piantai le mani sui fianchi, corrugai la fronte e cercai di fare la faccia feroce, perché non volevo creare inquietudini al mio predicatore moralista. Tu già saresti stato subito disperato pensando che avrei potuto essere costretta a interrompere il corso di perfezionamento della mia educazione. Poi mi avvicinai di più a lui. Ma sta tranquillo, generalone, tuo figlio ha già incominciato, sotto il cuore di sua madre, a prendere regolari lezioni di buon contegno da Monsieur Montel. Gian Battista mi proibì di prendere altre lezioni. Avrebbe voluto addirittura che non uscissi più di casa, tanto era impensierito per la mia salute. Circa 6 settimane fa, il 30 aprile, Barras è riuscito a far dimettere i suoi 3 condirettori. Adesso, consigliera, presenta lui solo la nostra Repubblica. I partiti di sinistra, che occupavano le posizioni di primo piano, hanno chiesto la nomina di nuovi ministri. Al posto di Talleyrand è stato nominato ministro degli esteri il nostro ambasciatore di Ginevra, un certo Monsieur Reinhardt, e ministro della giustizia il nostro famoso giurista e buongustaio Monsieur Cambaser. Ma poiché stiamo guerrigliando su tutte le frontiere e non potremo a lungo andare a difendere la Repubblica se non verranno migliorate le condizioni dell'esercito, così tuttora dipende dalla scelta di un nuovo ministro della guerra. Nelle prime ore del mattino del 15 Messidoro arrivò un messaggio dal Palazzo Lussemburgo. Gian Battista doveva recarsi subito dai due direttori. Si trattava di una cosa di grande importanza. Gian Battista si recò a cavallo in città ed io stetti tutta la mattina sotto il castagno, stizzita con me stessa, perché la sera innanzitutto avevo mangiato una libra intera di ciliegie e queste adesso mi facevano chiasso nello stomaco e mi sentivo sempre peggio. D'un tratto mi sentii come una coltellata nel grembo. Il dolore non durò che una frazione di secondo, ma dopo mi sentivo quasi paralizzata. Dio del cielo, che dolore ho provato! Maria! Maria! Maria accorse, mi lanciò un'occhiata e disse: Va su in camera da letto, io mando Fernando per la levatrice. Ma non sono che le ciliegie di ieri sera. Su, presto, in camera, ripeté Maria. Mi prese per un braccio e mi sollevò. La coltellata non si ripeté ed io salii le scale con un senso di sollievo. Poi udii che Maria mandava via Fernando. Fernando è tornato dalla Germania con Gian Battista. Una volta tanto quell'individuo osserva qualche cosa, disse Maria mentre entrava nella camera e stendeva tre lenzuola sul letto. Ma non sono che le ciliegie, di sicuro, insistevo io ostinatamente. In quello stesso momento la coltellata si ripeté alla schiena e mi trafisse da parte a parte. Urlai e quando il dolore fu passato, incominciai a piangere. Ma non ti vergogni? Smettila di piangere, mi aggredì Maria. Ma potevo leggerle in faccia che le facevo tanta pena. Chiamate Giulia, Giulia, piagnucolavo. Giulia avrebbe avuto compassione di me, tanta compassione di me, e io non desideravo altro che compassione. Fernando tornò con la levatrice e fu spedito da Giulia. La levatrice, signore, che razza di levatrice! Ella negli ultimi mesi mi aveva visitata qualche volta e mi era sempre stata antipatica, ma adesso mi sembrò come una gigantessa di qualche fiaba paurosa. La gigantessa aveva delle braccia vigorose e rosse e una rossa faccia larga con un autentico paio di baffi. Ma la cosa più sinistra era che questa donna granatiere aveva le labbra intensamente dipinte sotto i suoi baffi. E portava sui suoi grigi capelli arruffati una cuffiettina di pizzo bianco civettuola. La gigantessa mi osservò attentamente e, come mi parve, piena di disprezzo. «Devo mettermi a letto?» le domandai. «Ah, c'è tempo. Con lei la faccenda andrà molto per le lunghe», fu la risposta. Nello stesso momento Maria annunciò: «Ho preparato di sotto in cucina dell'acqua bollente». La gigantessa si volse subito a lei. Non c'è fretta. Mettete piuttosto al fuoco un brico di caffè. Caffè forte, non è vero? Per far coraggio a Madame, si informò Maria. No, per far coraggio a me, disse la gigantessa. Ah, ad un pomeriggio interminabile, seguì un'interminabile sera e alla sera una notte eterna. Un'incerta aurora si fece innanzi, una mattinata calda, soffocante, che non voleva passare, e le succedette ancora un pomeriggio, una sera e una notte. Ma io non potevo ormai più distinguere l'una dall'altra le ore del giorno. Senza tregua il coltello infuriava nel mio corpo e come da una grande distanza udivo qualcuna che urlava. A volte mi si faceva buio davanti agli occhi. Allora mi versavano del cognac in gola e io vomitavo e non potevo più respirare e piombavo nel nulla ed ero ridestata da nuovi dolori. A volte sentivo che Giulia mi era vicina, qualcuno continuava a tergermi la fronte e le guance, il sudore colava, a rigagnoli, la camicia mi si appiccicava, udivo la voce calma di Maria: «Devi aiutarti, Eugenia, aiutarti!» Come un essere mostruoso, la gigantessa si chinava sopra di me. La sua ombra sformata danzava sulla parete. Molte candele vacillavano. Era già di nuovo notte o era ancora sempre notte? Lasciatemi, lasciatemi sola, gemevo e mi rivoltavo. Ad un tratto esse indietreggiarono e improvvisamente Gian Battista fu accanto al mio letto e mi prese tra le braccia ed io appoggiai la faccia alla sua guancia. Il coltello mi straziava di nuovo, ma Gian Battista non mi lasciava. Come mai non sei a Parigi, a Lussemburgo? Neppure ti hanno chiamato laggiù. Il dolore si era attenuato, ma la mia voce suonava strana e lamentosa. Ma è notte, disse lui. Ma non ti avranno mica detto che devi andare di nuovo a un'altra guerra? Bisbigliai nella mia ansia. No, no, resto qui, adesso sono. Non potei intendere altro. Il coltello mi trafiggeva e come una gigantesca ondata il tormento si abbatté sopra di me. Ci fu un momento nel quale mi sentii molto bene. I dolori erano cessati ed ero tanto debole che non mi riusciva di pensare più a niente. Me ne stavo coricata come sopra le onde e mi ci dondolavo e non sentivo niente. Non vedevo niente, ma udivo. Sì, udivo. Non è ancora arrivato il dottore. Se non viene subito sarà troppo tardi. Era una voce forte, commossa, che non conoscevo. Perché un medico? Adesso sto così bene, mi dondolo sulle onde, la Senna con le mille luci. Mi viene versato in bocca del caffè caldo, bollente. Io muovo gli occhi. Oh, se non viene subito il medico! È la gigantessa, strano. Non avrei mai creduto che potesse avere questa voce così alta e così agitata. Perché mai ha perso la testa? Presto tutto sarà terminato. ma non terminava, incominciava proprio allora. Voci maschili presso la porta. «Aspettate nella stanza di soggiorno, signor ministro della guerra. State tranquillo, signor ministro della guerra. Le assicuro, signor ministro della guerra. Come mai, signor ministro della guerra? Che cosa ci sta a fare un ministro della guerra in camera mia? Io vi supplico, signor dottore. Questa è la voce di Giambattista. O non andare via, Giambattista». Il medico mi punse la coscia. «Un'iniezione?» Lo seppi più tardi, mi diede delle gocce di canfora e disse alla gigantessa di tenere sollevate le mie spalle. Ero tornata in me. Maria e Giulia stavano ai lati del letto e reggevano dei candelabri. Il medico era un uomo piccolo, magro, vestito di nero. La sua faccia stava nell'ombra. Ora balenò qualche cosa, sfavillò tra le sue mani. «Un coltello!» urlai. «Un coltello!» «No, soltanto un forcipe», disse Maria con calma. «Non gridare così, Eugenia!» Ma forse aveva proprio un coltello, perché adesso i dolori mi trafiggevano di nuovo, e proprio come prima, ma solo più rapidi, e al fine senza alcuna interruzione. Mi stava facendo a pezzi, finché caddi in un pozzo profondo e non seppi più nulla. La voce della gigantessa, di nuovo indifferente e ruvida, sta per finire, signor dottore Moulin. Forse resisterà, cittadina, purché cessi l'emorragia. Qualche cosa geme nella stanza, forte, acuto. Vorrei aprire gli occhi, ma le mie palpebre sono di piombo. Giambattista, un figlio, un piccolo figlio, meravigliosamente bello, singhiozza Giulia. Ad un tratto riesco ad aprire gli occhi. Li apro tanto, tanto, finché posso. Giambattista ha un figlio. Giulia regge un piccolo involtino di panni bianchi tra le braccia e Giambattista le sta ritto vicino. «È dunque così piccino, un bambino piccolo», dice meravigliato e si volta verso il letto e si inginocchia e prende la mia mano e l'accosta alla sua guancia, alla barba non rasa. «Questa guancia, ed è... ah sì, è bagnata! Anche i generali possono piangere! Abbiamo un magnifico bambino, ma è ancora tanto piccolo», mi annuncia. «È sempre così, da principio», balbetto io. Le mie labbra sono così tormentate dai morsi che a stento posso parlare. Adesso Giulia mi mostra l'involtino. Tra i lini occhieggia un visetto rosso come un gambero. Il visetto ha gli occhi chiusi e sembra essere offeso. Forse non è venuto volentieri a questo mondo. Invito tutti ad uscire dalla camera. «La signora del nostro ministro della guerra ha bisogno di quiete», gridò il dottore. «La moglie del ministro della guerra... vuole parlare di me, Giambattista?» «Da ieri l'altro sono ministro della guerra di Francia», disse Giambattista. «E io non mi sono neppure congratulata», mormorai io. «Eri molto occupata», sorrise lui. Poi Giulia depose il piccolo involto nella culla. Nella stanza rimasero soltanto il medico e la gigantessa, ed io mi addormentai. Oscar. Un nome del tutto nuovo che non avevo mai udito prima, Oscar. Ma suona bene. Deve essere un nome nordico. Dunque mio figlio avrà un nome nordico e si chiamerà Oscar. È un'idea di Napoleone, perché Napoleone vuole assolutamente essere lui il padrino. Si è fissato sul nome Oscar perché attualmente sotto la sua tenda nel deserto sta leggendo i canti eroici di Ossian. Quando ricevette una delle lettere pettegole di Giuseppe con la notizia che io aspettavo un bambino, rispose subito: «Se sarà un maschio, Eugenio dovrà chiamarlo Oscar e io ne sarò il padrino». Non disse una parola di Giambattista, che tutto sommato in questa faccenda ha pur diritto di dire la sua. Quando mostrammo questa lettera a Giambattista, egli sorrise. «Oh, non vorremmo offendere il tuo antico adoratore, ragazzina mia, per conto mio. Può benissimo fare da padrino al nostro ragazzo e Giulia lo rappresenterà al battesimo». «Il nome Oscar è il nome di un eroe nordico», intervenne Giulia, «che ci aveva portato la lettera di Napoleone». «Ma nostro figlio non è né nordico né eroico», dissi io, e contemplavo intanto il visetto minuto del mio fagottino che tenevo in braccio. «Il visetto adesso non è più rosso, ma è giallo, perché mio figlio ha l'itterizia. Ma Maria afferma che quasi tutti i neonati, un paio di giorni dopo che sono venuti al mondo, prendono l'itterizia. Oscar Bernadotte, Suona molto bene, disse Gian Battista, e con questo la faccenda era liquidata per lui. Tra 15 giorni traslocheremo, se non hai niente in contrario, Desiree. Fra 15 giorni ci trasferiremo in una nuova casa. Il ministro della guerra deve abitare a Parigi, e così Gian Battista ha acquistato una piccola villa tra la Rue Courcel e la Rue du Roche. Nella Rue Cisalpine, proprio ad una cantonata dalla casa di Giulia. Non è molto più grande della nostra casa di Chéau, ma qui avremo almeno attigua alla camera da letto, una vera stanza per i bambini. E oltre alla stanza da pranzo disporremo anche di un salotto perché Gian Battista possa ricevervi i funzionari e le personalità della politica che spesso vengono a fargli visita di sera. Per ora questo si fa qui, nella nostra stanza da pranzo. Io sto magnificamente. Maria non fa che cucinarmi le cose che preferisco e non sono più tanto debole. Mi posso già sollevare da sola. Purtroppo non faccio che ricevere visite per tutta la giornata e questo mi stanca molto. Ho anche letto il proclama che Gian Battista ha rivolto nel giorno della sua nomina a ministro a tutti i soldati. È così bello che mi sono venute le lacrime agli occhi. Gian Battista lo ha rivolto ai soldati della patria e vi ha scritto: «Ho conosciuto le vostre terribili angustie. Non ho bisogno di domandarvi se sapete che io pure le ho condivise. Vi giuro che non mi concederò un solo momento di quiete finché non vi avrò procurato pane, vestiario ed armi. E voi, camerati, voi dovete giurare di infrangere ancora una volta questa terribile coalizione. Noi teniamo fede ai nostri giuramenti». Quando Gian Battista, la sera alle 8, rincasa dal Ministero della Guerra, si fa servire un pasto accanto al mio letto. E poi scende nel suo studio e per metà della notte, detta ad un suo segretario, già alle 6 del mattino, si reca poi a cavallo in Rue de la Varenne, dove il ministro ha la sua sede provvisoria. E Fernando dice che il letto da campo che Gian Battista ha fatto mettere giù nel suo studio rimane spesso intatto. È terribile che proprio mio marito sia quello che deve salvare da solo la nostra Repubblica. E intanto il governo non ha abbastanza denaro per pagare le armi e le munizioni per le 90.000 reclute che Gian Battista sta facendo istruire. E succedono sempre delle scenate tra lui e il direttore Sie. Se almeno Gian Battista avesse un po' di pace la sera quando vuole lavorare in casa. Ma io sento sempre gente che va e che viene e Gian Battista mi ha detto ieri che i rappresentanti dei partiti si danno un gran da fare per attirarlo ciascuno dalla sua parte. Proprio mentre lui, spossato ed eccitato insieme, se ne stava ingollando la cena, Fernando venne ad annunziare che di sotto aspettava un certo Monsieur Schapp, che non aveva voluto dire il motivo per cui chiedeva di essere ricevuto. Gian Battista si forbì la bocca, balzò in piedi e corse da basso per potersi liberare di questo misterioso signor Schapp. Un quarto d'ora dopo comparve di nuovo improvvisamente in camera mia. La sua faccia era rossa di sdegno. «Questo Schapp è stato inviato da me dal duca d'Anghien. Che sfacciataggine! Che impudenza borbonica!» «E chi è il duca d'Anghien? Potrei saperlo?» domandai. «Luigi Borbone Condé, duca d'Anghien, il più capace membro della famiglia dei Borboni e al soldo degli inglesi, e si trova in qualche parte della Germania. Se io mi impadronissi del potere e restituissi poi la Francia ai Borboni, mi nominerebbero conestabile o qualcosa di simile. Questi spudorati!» «E tu che cosa gli hai risposto?» «Beh, l'ho messo alla porta e l'ho incaricato di dire al suo mandante che io sono un repubblicano convinto.» «Tutti dicono che in realtà tu governi la Francia. Potresti, se lo volessi, rovesciare il direttorio e diventare tu direttore?» domandai con cautela. «Certamente», disse calmo Gian Battista. «Ho perfino avuto una proposta di questo genere dai giacobini. Dai giacobini e da qualcuno dei nostri generali vorrebbero solo che io lo desiderassi, nominarmi direttore e darmi dei poteri assai più estesi di quelli che spettano attualmente ai direttori.» «E tu hai rifiutato?» «Naturalmente, io tengo fede alla Costituzione.» In quel momento Fernando annunziò che il cognato Giuseppe chiedeva di parlare a Gian Battista. «Proprio lui mi ci voleva!» gemette Gian Battista. «Fallo salire, Fernando.» Giuseppe comparve. Prima si chinò sulla culla e disse che Oscar è il più bel bambino che mai avesse visto. Poi pregò Gian Battista di scendere con lui nello studio. Vorrei domandarvi una cosa, e il nostro colloquio potrebbe annoiare, Desiree, disse. Giambattista scosse il capo. Oh, ho così poche occasioni di vedere Desiree. Preferirei restare qui da lei. Accomodatevi e siate breve, Bonaparte. Ho ancora davanti a me una lunga serata di lavoro. Sedettero tutti e due accanto al mio letto. Giambattista cercò la mia mano. Calma e forza si sprigionavano dal suo tocco lieve. Chiusi gli occhi. Si tratta di Napoleone, udii dire da Giuseppe. Che cosa ne direste se Napoleone manifestasse il desiderio di tornare in Francia? Direi che Napoleone non può tornare fino a che il ministro della guerra non lo richiami dal teatro della guerra d'Egitto. Cognato Bernadotte, noi due non ci dobbiamo ingannare a vicenda. Sul teatro della guerra d'Egitto un comandante in capo della statura di Napoleone è oggi assolutamente superfluo. Da quando è stata distrutta la flotta, le operazioni dal più al meno sono cessate. E perciò la spedizione d'Egitto può essere considerata come un fiasco? Io lo avevo predetto. Ma non volevo esprimermi così brutalmente, ma poiché non sono imminenti in Africa sviluppi risolutivi, si potrebbero impiegare molto meglio le capacità di mio fratello su altri fronti. E in definitiva Napoleone non è soltanto uno stratega, voi stesso conoscete le sue capacità di organizzatore. Qui a Parigi, per la riorganizzazione dell'esercito, potrebbe rendere dei servizi straordinari. Inoltre, Giuseppe tacque. Aspettava un'obiezione, ma Giambattista non parlò. La sua mano tranquilla e protettrice posava sulla mia. «Voi sapete che si stanno preparando innumerevoli cospirazioni contro il governo», disse finalmente Giuseppe. «Come ministro della guerra non posso ignorarlo, ma che cosa c'entra questo col comandante in capo del nostro corpo di spedizioni in Egitto?» Oh, la Repubblica ha bisogno di un uomo, ecco, ha bisogno di parecchi uomini forti in tempo di guerra. La Francia non può permettersi di questi intrighi di uomini di parte e di queste discordie nella sua politica interna. Voi dunque proponete che io richiami vostro fratello per reprimere le varie cospirazioni, ho inteso bene? Sì, pensavo che... Scoprire le cospirazioni è compito della polizia, né più né meno. Oh, si capisce quando si tratti di cospirazioni contro lo Stato, ma io posso rivelarvi che certi ambienti di grande influenza meditano di attuare un concentramento di tutte le forze politiche positive. Che cosa intendete per concentramento di tutte le forze politiche positive? Beh, per esempio, se voi e Napoleone, le due menti più capaci della Repubblica... Oh, smettetela di menare il can per l'aia. Dite chiaro e tondo... Per liberare la Repubblica dalla politica di partito, certa gente pensa di creare una dittatura. Mio fratello Napoleone desidera di essere richiamato dall'Egitto per conquistarsi un posto di dittatore. Siate sincero, Bonaparte. Giuseppe, sgradevolmente sorpreso, si schiarì la gola. Ho parlato oggi con Talleyrand. L'ex ministro pensa che il direttore Sie non sia alieno dall'appoggiare un cambiamento della Costituzione. «So benissimo che cosa immagina Talleyrand. So anche quel che vorrebbero certi giacobini e vi posso anche rivelare che soprattutto i realisti ripongono tutte le loro speranze in una dittatura. Per quel che mi riguarda, io ho giurato fedeltà alla Repubblica e rispetterò in ogni caso la nostra Costituzione. È abbastanza chiara questa risposta?» Oh, capirete che un uomo ambizioso come Napoleone può essere portato alla disperazione da questo ozio in Egitto. Per di più, mio fratello ha da regolare a Parigi delle importanti faccende private. Ha intenzione di chiedere il divorzio. L'infedeltà di Giuseppina lo ha profondamente turbato. Se mio fratello, nella sua disperazione, prendesse ora di testa sua la risoluzione di tornare, allora... Le dita di Giambattista strinsero come una morsa di ferro la mia mano. Ma soltanto per un attimo. Poi si allentarono di nuovo e io lo udii rispondere calmo. Allora, come ministro della guerra, mi vedrai costretto a deferire vostro fratello a un tribunale di guerra e penso che come disertore sarebbe condannato e fucilato. Ma Napoleone, che è un ardente patriota, non può restare in Africa. Un comandante in capo deve stare con le sue truppe. Egli ha condotto queste truppe nel deserto e deve rimanere con esse fino a che non si trovi il modo di farle rientrare. Questo lo deve intendere anche un non militare come voi, Monsieur Bonaparte. Seguì un silenzio che si faceva sempre più opprimente. «Il vostro romanzo è così interessante, Giuseppe?» dissi io da ultimo. Oh sì, ricevo congratulazioni da tutte le parti, dichiarò Giuseppe con la sua solita modestia e finalmente si levò. Giambattista lo accompagnò giù. Io cercai di addormentarmi. Nel dormiveglia riaffiorava in me il ricordo di una ragazzetta che faceva le corse in gara con un ufficiale magro, mingherlino, e si arrestava poi contro una siepe illuminata dalla luna. Il bianco volto contratto dell'ufficiale appariva quasi lugubre nella luce lunare. Io, per esempio, io sento qual è la mia sorte o la mia predestinazione, diceva l'ufficiale. E la ragazzina ridacchiava: Tu mi crederai, Eugenia, non è vero? Qualunque cosa succeda. Tornerà improvvisamente dall'Egitto, pensai. Lo conosco. Tornerà e rovescerà la Repubblica se appena vedrà una possibilità di far questo. A lui non importa nulla della Repubblica, nulla dei diritti dei suoi cittadini e non capirà un uomo come Giambattista. Non ha mai capito degli uomini così. Figliolina mia, in qualunque tempo e in qualunque luogo degli uomini cerchino in avvenire di privare i loro fratelli del diritto alla libertà e all'eguaglianza, nessuno potrà più dire loro: Signore, perdonali perché non sanno quel che si fanno. Giambattista e papà si sarebbero capiti. Quando scoccarono le 11, entrò Maria e mi mise Oscar al petto. Salì anche Giambattista. Lui sa che a quest'ora io do al piccolo il suo pasto serale. Tornerà Giambattista, dissi io. Chi? Il padrino di nostro figlio. Come ti comporterai? Se mi daranno i necessari poteri, lo farò fucilare. E se non li avrai? Allora probabilmente si impadronirà lui di questi poteri e farà fucilare me. Buonanotte, ragazzina. Buonanotte, Giambattista. Ma non torturarti il cervello per questo, si intende che ho voluto scherzare. Capisco, Giambattista. Buonanotte.